Buonasera a tutte e a tutti, vi diamo il benvenuto alla Biblioteca Provinciale Italiana Claudia Augusta per una presentazione molto interessante che appunto caratterizzerà il nostro mercoledì pomeriggio. E, con l'occasione vi voglio ricordare che la prossima settimana avremo l'ultima presentazione del mese di gennaio e martedì 27 alle 17:30 verrà presentato il libro di poesie di Simonetta Lucchi intitolato E tutto tace. L'autrice sarà presente e ne parlerà con la giornalista Alessandra Tortosa. Per quanto riguarda gli appuntamenti di febbraio, troverete tutte le notizie sui nostri social e anche invieremo una newsletter. Vi posso anticipare che l'11 alle 17 ci sarà il nuovo incontro del gruppo di lettura chiamato localmente, dedicato alla narrativa locale, e parleremo del romanzo Stilbach o della nostalgia di Sabine Gruber. Siete tutti e tutte invitati. Diamo il benvenuto a Sandro Salsi, autore del libro In viaggio con Rumi, un viaggio dell'anima tra saggezza e spiritualità. E lo ringraziamo per essere qui con noi e gli cediamo la parola perché ci accompagni quindi in questo viaggio Questo che viaggio. sembra molto interessante e arricchente. Grazie, grazie Benvenuto. per la presentazione. Grazie per essere qua. È un'ora del vostro tempo. Devo andare veramente vicino, sì, non sono abituato. Dunque, io sono Sandro Salsi, ma scrivo con lo pseudonimo con il nome di penna di Madumaia. Sono nato a Sanremo, quindi sono ligure, ho passato la mia gioventù in Liguria, poi sono partito, sono stato circa 22 anni all'estero, gli ultimi 12 li ho passati in Canada, a Vancouver, sono diventato cittadino canadese e dico questo perché è lì che ho conosciuto Rumi. Ricordo ancora quando è successo. Era una domenica mattina, c'è una vicino a UBC. University of British Columbia, l'Università della Columbia Britannica, c'è una piccola libreria che fa angolo, è molto antica. Sono quelle librerie dove entrate sanno di vecchio, di vissuto, dove si sente l'odore delle pagine e dove è caratterizzata da specialized, come si può dire, specializzata in libri di carattere spirituale, non proprio religiosi, ma che arricchiscono lo spirito, il viaggio interiore. E là le librerie sono diverse, non sono come qua, dove uno entra, prende un libro, paga e se ne va. Sedere, si può fare conversazione, si può prendere un caffè, si può consultare dei libri anche per delle ore e non comprarli. È un bel modo, secondo me, per fare gruppo. E questa libreria è lì da non so quanti decenni e sta funzionando. E comunque, ricordo ancora, era una domenica mattina e allora io vado e entro. C'è l'incenso, è proprio un bellissimo posto. E ricordo che c'era una intera sezione dedicata a Rumi e un'intera sezione accanto a Rumi, c'era una sezione dedicata al Dalai Lama. Io non so se parlo nel modo giusto perché ogni tanto. Vediamo se va meglio, forse va meglio, forse sì. Ecco, nella mia ignoranza, io ho sempre pensato che Rumi fosse famoso in tutto il mondo, così come lo era in Canada. Quindi io comincio a leggere su Rumi, una persona, è un mistico, se vogliamo, che ha comunque mi ha colpito nel profondo, e ritorno in Italia nel 2011 con questa idea comunque che Rumi fosse famoso, così come lo era, anche in Italia. E ho scoperto che non è così. Quanti di voi non hanno mai sentito parlare di Rumi? Ancora parecchi. In genere, durante le mie presentazioni, ne ho fatte parecchie, trovo sempre tante persone che ne hanno sentito parlare, ma pochissime che hanno letto qualcosa su di Rumi. Quindi cosa succede? Io ritorno in Italia e non è stato quello il momento in cui io ho deciso di scrivere qualcosa su di Rumi. È stato dopo, come probabilmente ad ognuno di voi è capitato, ho passato un periodo difficile della mia vita e una delle citazioni di Rumi mi ha colpito in modo particolare. E a dire il vero, non era nemmeno la prima volta che la sentivo, quella citazione, però forse ero pronto ad accoglierla. E ora ve la dico, la citazione era: la ferita è il luogo da cui entra la luce. Queste parole mi hanno colpito particolarmente perché ho compreso che attraverso il dolore si può cambiare, si può usare il dolore come catalista di cambiamento e è stato quello il momento in cui la mia vita ha preso una direzione diversa. Io ero una persona molto diversa, una persona che probabilmente che non si prendeva mai le proprie responsabilità, che qualunque cosa succedeva era sempre colpa di qualcun altro. E Rumi in questo senso mi ha cambiato. Rumi, tra l'altro, non si chiamava così in vita, è un nome che è un nomignolo, se vogliamo, che è stato dato dopo. Rumi si chiamava Jalaluddin Muhammad Balkhi. Lui è nato a Balkhi, proveniente da Balkh. Balkh è nell'attuale Afghanistan. All'epoca era tutto l'impero persiano, lui è nato a Balkh. Quando c'è stata la dominazione mongola, sono arrivati i mongoli, e suo padre ha deciso di portare lui e la famiglia via da Balkh e piano piano hanno peregrinato fino a stabilirsi a Konya, nell'attuale Turchia, che allora anche quella località era nell'impero persiano. Scusate. Parliamo del 300. Parliamo del 300. Il romanzo è ambientato nel 1244, XIII secolo. Sì. Quindi, per la, non so, forse la 200ª volta leggo Rumi, mi colpisce in modo particolare, dà una direzione diversa alla mia vita e nel mio piccolo decido di scrivere qualcosa affinché, così come ha aiutato me, possa aiutare qualcun altro. Allora, cosa faccio? La mia idea era di fare un libro di citazioni e poi in realtà è venuto fuori un lavoro diverso, adesso ne parliamo come mai, però io volevo fare delle citazioni. E quando vivevo a Vancouver, nella costa ovest del Canada, io ero venuto a conoscenza di un gruppo di persone che vivevano dall'altra parte della baia, a North Vancouver, e c'era un gruppo di iraniani. E non so se vi ricordate, nel 79 c'è stata la rivoluzione, ce n'è una adesso, però ce ne sono state tante, però quella lì in particolare, quella del 79, ha fatto sì che lo Shah di Persia andasse via e le persone che lo supportavano sono scappate anche loro, c'è stata questa diaspora, ci sono iraniani un pochino in tutto il mondo. Le persone che ho conosciuto io a Vancouver erano persone molto, sono tuttora, persone bellissime, alcune insegnano all'università, degli eruditi, e ho chiesto loro se mi potevano aiutare, perché di citazioni di Rumi tradotte ce ne sono tante, però io volevo andare direttamente alla fonte. E così ho chiesto loro se mi potevano aiutare a estrapolare alcune citazioni. Io sono stato molto preciso. Rumi ha vissuto nel XIII secolo, era un musulmano, era un sufi, io non sono né musulmano e né sufi. Io ho incontrato delle parole che sono state attraversate dalla luce e volevo condividerle. Quindi ho chiesto specificatamente che mi aiutassero a trovare delle citazioni che potessero essere di aiuto alle persone che vivono nel XXI secolo. E quindi è saltata fuori qualcosa di spirituale, perché parliamo di un viaggio interiore e il romanzo è un viaggio nel mondo che in realtà è la metafora del viaggio interiore del protagonista. Quindi arriviamo alla fine di questo lavoro, abbiamo trovato le citazioni, loro le hanno tradotte dal farsi, io non parlo il farsi, che è una specie di persiano moderno, dal farsi all'inglese, e io le traduco dall'inglese all'italiano. Quindi sì, parliamo di una traduzione della traduzione, ed effettivamente la forma è cambiata un pochettino, ma non la sostanza. Ci abbiamo messo è stata la parte più difficile del nostro lavoro, perché in realtà il romanzo, se vogliamo, la storia di questo viaggio è stata la parte più semplice. Però ci siamo presi veramente il nostro tempo per cercare di fare un buon lavoro, perché c'è molta responsabilità a portare le parole di un grande maestro in una lingua che non era la sua, ovviamente. Scusate. Quindi arriviamo alla fine di questo lavoro e io non sono soddisfatto, a me sembra che manchi qualcosa, e allora mi invento tre discepoli, tre studenti, se vogliamo, che pongono delle domande al maestro. Quindi se aprite le pagine troverete una domanda e una risposta. Una domanda, la domanda è frutto della fantasia dell'autore, la risposta sono le vere parole che Rumi ha pronunciato quasi 800 anni fa. Arriviamo alla fine e ancora non sono contento, ma sembrava che mancasse qualcosa. E io in realtà non sono neanche un perfezionista, però non ero soddisfatto. Allora, cosa succede? Succede che nel 1244, prima che iniziasse questo viaggio, Rumi incontra la persona che stravolgerà la sua vita. Incontrerà il suo maestro, colui che lo cambierà. E pochi mesi prima dell'inizio di questo viaggio, la persona che incontrerà si chiamava Shamsi Tabrizi, ed era un derviscio errante, una persona... un senza tetto, un maestro un pochino strano, se vogliamo, no? Magari potrebbe essere equiparato a San Francesco, se vogliamo, no? Una persona molto particolare che viveva di espedienti, mangiava quando poteva, non si lavava e dormiva dove poteva. Si incontrano. Rumi era una persona diversa, una persona molto diversa prima che incontrasse Shamsi Tabrizi. Era un giurista di diritto islamico e dicono che fosse una persona piuttosto arrogante, una persona che aveva un gruppo di discepoli sempre attorno, una persona che amava molto se stesso. Quando incontrò Shamsi Tabrizi, il suo mondo si capovolse. E a questo proposito voglio farvi un regalo. E come ho detto, il romanzo inizia con è il racconto di questo viaggio. Però voglio anche dirvi quello che successe quando queste due persone si incontrarono. E questo è un regalo che faccio alle persone che vengono alle mie presentazioni, quindi le persone che comprano il libro online, questo capitolo extra non ce l'hanno. Quindi ora ve lo leggo, vi dico che cosa è successo nel 1244, poco prima che questo viaggio iniziasse. Konya, 1244, il respiro di una città mistica. Konya, al tramonto, brillava come un tappeto d'oro tessuto dai raggi del sole. Il vento danzava tra le strade di pietra portando con sé il profumo dell'incenso e del pane appena sfornato. Le ombre si allungavano sui minareti slacciati, mentre le voci dei mercanti si mescolavano al canto del muezzin che chiamava la preghiera con una dolcezza che sembrava sciogliere i cuori. Ma più della pietra scolpita, più dei tappeti finemente intrecciati, più delle spezie esotiche portate da terre lontane, a Konya si respirava qualcosa di invisibile e profondo. Il profumo dell'anima alla ricerca di sé. Si narra che fosse un giorno qualunque, eppure segnato dalle stelle. Rumi, il dotto maestro, passeggiava per le vie di Konya circondato dai suoi discepoli. Era un uomo erudito, la sua mente colma di scienza e sapienza, eppure il suo cuore era ancora una stanza in attesa di essere illuminata. Shams giunse come il vento che stravolge le foglie, come un lampo nel cielo d'inverno. Era un derviscio errante, uno straniero dai capelli scompigliati che non possedeva nulla se non il fuoco della verità. Si dice che si incontrarono presso una fontana o forse fra le bancarelle del mercato. Alcuni raccontano che Shams gli pose una domanda che scosse le fondamenta della sua anima. Qua voglio fare una parentesi perché in realtà non si sa che cosa si siano detti esattamente queste due persone e ciò che si sono detti è definito nella leggenda e nel mito e quindi ho deciso di omettere questa parte. Tuttavia, in quel momento il mondo si capovolse. Non c'erano né strade, né uomini, né polvere, né tempo. Solo due anime che si specchiavano l'una nell'altra, una torcia accesa e un'anima pronta a bruciare. Da quel giorno Rumi non fu più lo stesso. Abbandonò le aule accademiche per sedersi accanto a Shams. Ascoltava le sue parole come un fiume assetato ascolta la pioggia. Ballavano insieme, ma non con i piedi, ma con lo spirito. E la gente di Konya li osservava con stupore e sospetto. Ma l'amore divino è un fuoco che brucia ogni paura. Rumi divenne poeta, il sufi innamorato, il cuore che danzava al ritmo dell'invisibile. E quando Shams scomparve, lasciò dietro di sé un uomo nuovo. Un uomo che trasformò il dolore in versi, il silenzio in musica e la nostalgia in estasi. E così, tra le mura di Konya, nacque il canto che ancora oggi risuona nel vento. Bene, ve ne lascio una copia. Ecco, come ho detto, le persone che comprano il libro online non ce l'hanno questo capitolo extra. Sì, potete interrompermi quando volete. A me piace che le presentazioni siano dinamiche, che quindi se avete delle domande, se vuole parlare, condividere questo ricordo. Sì, andavo in Cappadocia e sono passata per Konya, ho visto ballare i dervisci, è stata un'emozione grandissima. È la seconda persona che mi dice questa cosa. C'era, ricordo a Sanremo, ho fatto una presentazione a Sanremo, la mia città, e c'era questa coppia e loro erano stati a Konya, erano stati al mausoleo di famiglia, avevano anche loro visto i dervisci. Per chi non lo sapesse, i dervisci rotanti sono delle persone che fanno una pratica spirituale molto particolare, dove è una preghiera. Però viene fatta con il corpo e loro roteano con gli occhi chiusi e raggiungono una specie di trance e in questo modo si avvicinano all'assoluto. Tra l'altro, la pratica dei dervisci rottanti si dice che l'abbia inventata Rumi, ma non è così. Non è così perché è stata inventata da uno dei suoi figli e da uno dei suoi discepoli, quindi la generazione successiva. Però sembra che sia una pratica molto potente, all'epoca era solo per gli uomini, e ora invece è aperta anche alle donne. Io conosco una persona che vive a Roma che la fa, ed è una donna. Dunque, io come ho detto prima, non ho delle slide, vado un po' così a braccio, ci sono delle cose che voglio dire, se ci sono delle domande potete tranquillamente interrompermi e vediamo di rispondere. Cosa vorrei fare? Io vorrei leggervene alcune di queste citazioni, perché alcune sono stupende, sono veramente, veramente bellissime, e anche alcune poesie. Alcune poesie, questo, io quando ho scritto, ho fatto questo lavoro, mi sono trovato nella condizione di dover prendere una decisione. Rumi, come ho detto prima, era un giurista e poi successivamente diventò il sufi innamorato, la persona che scrisse più di 70.000 versi sull'amore. E ci sono delle poesie che sono bellissime, meravigliose. Però io credo che le citazioni siano più dirette e arrivino direttamente al cuore, come una stilettata. E quindi ho deciso di fare un libro di citazioni. Tuttavia, alcune sono talmente belle, alcune poesie sono talmente belle che le ho volute inserire. Allora, cosa succede? Il maestro, i suoi discepoli si accodano ad una carovana, cominciano il viaggio da Konya verso Damasco, ci sono varie tappe, c'è Karapinar, Adana, eccetera, eccetera, e ogni sera si fermano attorno al fuoco e gli studenti e il maestro si appartano un pochino, accendono il loro fuoco, il maestro, gli studenti cominciano a fare domande e il maestro risponde. Qualche volta il maestro declama delle poesie che arrivano dal profondo, e adesso ve ne leggo una. Ho scelto questa poesia per un motivo particolare, poi ve lo dico. Scelgo di amarti in silenzio, perché nel silenzio non c'è rifiuto. Scelgo di amarti nella solitudine, perché nella solitudine appartieni solo a me. Scelgo di adorarti da lontano, perché la distanza mi proteggerà dal dolore. Scelgo di baciarti nel vento, perché il vento è più gentile delle mie labbra. Scelgo di trattenerti nei miei sogni, perché per me nei sogni tu non avrai mai fine. Io trovo questa poesia bellissima e attualissima, anche perché non conosco una persona che non abbia mai amato almeno una volta in questo modo nella vita. Da lontano, senza farlo sapere all'altra persona, di nascosto, e mi ha colpito in modo particolare, quindi l'ho voluta inserire. Ora vi leggo qualcuna di queste citazioni. Alcune probabilmente le avrete già sentite, qualcosa del tipo: se state cercando un amico senza difetti, probabilmente rimarrete senza amici. Anche questa è famosa. Quando ero giovane e forte, volevo cambiare il mondo. Ora che sono vecchio e saggio, voglio solo cambiare me stesso. È difficile girare le pagine con il microfono, scusate. Grazie. Maestro, si può vivere senza amore? Senza amore il culto è un peso, il ballo è un lavoro e la musica solo rumore. Maestro, cosa vedi? Nella tua luce ho imparato ad amare, nella tua bellezza ho imparato a scrivere poesie. Tu balli dentro il mio petto, dove nessuno può vederti, ma qualche volta io ti vedo e ciò che vedo diventa arte. Anche questa è famosa. Maestro, da dove inizio e dove finisco esattamente? Non sei una goccia d'acqua nell'oceano, sei l'oceano in una goccia d'acqua. Maestro, mi sento sola. Ogni momento contiene centinaia di messaggi provenienti da Dio. Come ho detto prima, ci sono tre studenti che pongono delle domande al maestro. E uno di questi è una donna. Il protagonista è Hassan, che è uno dei tre studenti e dopo qualche anno ricorda quei giorni con nostalgia, con affetto, e racconta la sua storia. Però uno degli studenti è una donna e io volevo un'energia femminile in questo gruppo. Però non ero sicuro che la storia fosse credibile, perché parliamo del 300 e di una giovane donna che va in giro nel deserto con un gruppo di uomini, non so, in un mondo musulmano, non so se poteva essere qualcosa di credibile. Quindi io chiamo i miei amici, gli pongo questa questione, e me la bocciano subito, mi bocciano subito l'idea. Però secondo me Fatima ci sta bene in questo gruppo. E allora cosa succede? Io mi faccio un po' di ricerca, mi rendo conto che le persone che dovevano viaggiare da un posto all'altro si accodavano in una carovana, un po' perché era più semplice, se non conoscevano la strada, è un po' per protezione. E con le carovane c'erano delle famiglie, quindi c'erano delle donne, c'erano dei bambini. Allora cosa succede? Fatima durante il giorno sta con il maestro e con gli altri studenti e di notte va a dormire con le donne. Allora chiamo, propongo questa nuova versione, adesso si può funzionare. E allora ecco che abbiamo introdotto Fatima, che secondo me in realtà è la vera protagonista del romanzo, perché le domande che fa sono più vicine al nostro sentire, alle persone che vivono nel XXI secolo, e sono più, un pochino più tormentate le sue domande. E secondo me è venuta fuori bene questa cosa. Volevo dirvi un'altra cosa sulla scelta dei tempi verbali che ho usato per questo piccolo lavoro. Come quasi tutti i libri, sono scritti al passato, all'imperfetto, perché qualcosa si narra qualcosa che è già successo, no? Tuttavia, io cosa volevo fare? Io volevo che il libro, che il racconto di questo viaggio riflettesse l'evoluzione spirituale del protagonista. Cosa succede? Il primo capitolo è scritto al futuro, perché Hassan non vede l'ora di cominciare questo viaggio con gli altri studenti. Tutto il libro, perché Hassan ricorda quello che è successo, è scritto al passato, però succede qualcosa verso la fine, succede qualcosa al protagonista, e da quel momento non c'è più né passato e né futuro, c'è solo il qui ed ora. Hassan vive nel momento presente, e infatti l'epilogo è al presente. E volevo farvi presente questa cosa, perché è piuttosto strana come scelta, però volevo che il libro riflettesse l'evoluzione interiore di Hassan. Me? Magari. No. E forse, direi forse il modo in cui pone le domande, Hassan mi è più vicino. Questa è una bella domanda, anche perché le domande che vengono poste al maestro sono frutto del mio sentire in quel momento. Quando le ho rilette, io alcune domande avrei poste in modo diverso, e così, come è successo a me, succederà anche ai lettori, ed è successo perché le persone mi hanno contattato, mi è stato detto: ma io avrei fatto una domanda diversa, e ci sta. E io volevo che fosse così, volevo appunto che fosse esattamente così. Il formato di questo libro è piccolo, on purpose, come si dice, apposta, perché io giro con uno zainetto, le signore girano con una borsetta, si può tenere in borsetta, e ogni volta che una persona ha bisogno di si sente in un certo modo, deve solo fare che aprire la pagina, e molto spesso si sente quello che di cui ha bisogno di sentirsi dire in quell'esatto momento. Come ho detto prima, la parte più difficile è stata scegliere le citazioni e tradurre. La parte del racconto è stata la cosa più semplice per me. Ho fatto della ricerca e ho creato questa storia. Però la storia è volutamente leggera, e i paragrafi sono piccoli e si leggono molto in fretta, perché volevo che la storia non prendesse il sopravvento su ciò che è veramente centrale, che sono le parole di Rumi. E infatti c'è stata una persona ad una presentazione che aveva già comprato il libro, e però è venuta ad una delle presentazioni perché voleva farmi delle domande, e una delle domande che mi ha fatto è: perché tu hai messo le citazioni al centro? Perché sono la parte più importante. Ed è vero, Io ho messo le citazioni al centro pagina perché sia chiaro che siano la cosa più importante, che non è la storia, che la storia è carina. E Fatima si innamora, si perdono nel deserto, vengono attaccati dai predoni. È un romanzo, succedono tante cose e, che accompagnano i protagonisti da Konya a Damasco, però non è la cosa più importante, quindi io ci tenevo veramente a dire questa cosa, ci tengo anche a dire che questo ovviamente è un libro che parla di viaggi interiori, che non parla di religione, ovviamente. Le citazioni che abbiamo scelto sono volutamente delle parole che possano aiutare le persone del XXI secolo, che vivono in questo secolo. Dunque, io in realtà vi ho letto alcune delle citazioni, vi ho parlato un pochino della nascita, di come mi è venuta l'idea di questo libro. Mi resta solo di leggervi qualcuna delle curiosità sulla vita di questo grande maestro, che in realtà è uno dei grandi dell'umanità, anche se è veramente poco conosciuto in Italia. Più o meno, sì, adesso io non ricordo esattamente quando nacque Dante, quando morì, però Rumi nacque nel 1207 e morì nel 1273. Lei, vi ricordate quando è nato Dante? Più o meno siamo in quell'epoca. Siamo comunque nel 300, sì. Sono stati per il mondo dei momenti di grande cambiamento. Durante lo svolgimento del viaggio è caduto a Gerusalemme, per la centesima volta. Ho accennato alla dominazione mongola, che ha fatto sì che il padre di Rumi decidesse di portare via la famiglia. In realtà, probabilmente, se fossero rimasti dove erano, non sarebbe cambiato niente, perché i mongoli erano molto potenti dal punto di vista militare, ma non avevano dal punto di vista amministrativo la forza di schiacciare i popoli e di fare diventare tutti mongoli, passatemi il termine. Quindi in realtà le persone che vivevano sotto la dominazione mongola potevano continuare a fare la loro vita, pregare il loro dio e continuare ad avere le loro customs, come si dice, le loro abitudini. Esatto, sì, esatto. Scusate, ogni tanto sono ritornato nel 2011, ma ogni tanto ancora non le paroline mi sfuggono, e questo per una persona che scrive libri è ancora più difficile. Però a volte in inglese le cose si dicono meglio, allora io scrivo di getto. E molto spesso la prima parte, la prima stesura, ci sono delle frasi in inglese che poi me le vado a rivedere e le traduco. Dunque, in realtà ho detto quasi tutto. Ecco, una cosa particolare di questa persona era che aveva un approccio incredibilmente inclusivo per quanto riguardava la spiritualità, perché viviamo in un'epoca dove i cristiani stanno con i cristiani, i musulmani stanno con i musulmani, però aveva questo approccio dove spiegava le cose in modo veramente diverso, e quando morì, ai suoi funerali ci furono migliaia di persone di tutte le fedi, che è una cosa mai sentita. E quindi questo dà l'idea della grandezza del personaggio. Sì, ecco, io più o meno vi ho detto tutto. In realtà, poi Rumi, quando si parla di lui le cose che dice sono cose che ci toccano tutti, le grandi cose fondamentali della vita, la ricerca del senso, la perdita, il dolore, quindi sono cose che toccano tutti noi. C'è qualche domanda? Sì. La religione non ha niente a che fare con questo libro. Io, sì, esatto, io come ho detto prima non sono musulmano, non faccio un percorso sufi, se qualcuno mi chiede, mi facesse delle domande io non saprei neanche rispondere. Come ho detto all'inizio, io ho incontrato delle parole che sono state attraversate dalla luce e che in qualche modo mi hanno toccato nel profondo e volevo solo condividerle. Ho provato a fare un libro di citazioni, ma alla fine ne è venuto fuori il romanzo. Forse perché, anche perché per il modo in cui sono, io amo raccontare delle storie. A me le poesie mi vengono molto facilmente, in pochi minuti gliene scrivo una, poi ovviamente ci vuole del tempo a rivederla, però in pochi minuti gliela scrivo una poesia, però non mi dà la stessa soddisfazione. Io amo scrivere storie, raccontare storie, quindi un romanzo di 200 o 300 pagine per me è ovviamente un lavoro molto diverso, molto più impegnativo, però mi dà più soddisfazione. E forse è per quello che siamo finiti in quella direzione. Però credo che se si voglia far passare un messaggio, se si usa una storia è più semplice. Faccio un esempio. Questo libro è un po' particolare e va spiegato. Le persone che lo comprano online senza essere venute alla presentazione probabilmente qualche domanda se la pongono. Però il prossimo è diverso. Il libro che sto scrivendo ora, così ve ne parlo anche, è un romanzo, anche questo parla di spiritualità, però non ci sono citazioni. Allora, cosa succede? Matteo Leone, che è il protagonista di questo romanzo, vive in una grigia e fredda città del nord Italia, non è Bolzano, è fredda, ma è più grigia, Torino. Torino non viene mai nominata, però i luoghi di Torino sì, e chi ci ha vissuto come me sa riconoscerlo. Allora cosa succede? Matteo Leone perde il lavoro, la compagna lo lascia, suo figlio non gli parla, gli viene diagnosticata una malattia, una brutta malattia. Gliene succedono di tutti i colori. No, ne trova un altro. Cosa succede? Una di queste mattine, tanto lui non lavora, cammina per la città, si siede su una panchina e sulla panchina, dall'altro lato, c'è una giovane donna che legge un libro. Non si rende neanche conto, non la vede neanche. Lei si volta e ritorna al suo libro. Poi si rivolta, lo guarda, chiude il libro, lo lascia lì e se ne va. Matteo Leone, dopo un bel po' di tempo, vede il libro, prende il libro, la cerca, non la trova, decide di tenerlo. Il libro è stato scritto circa 2500 anni fa in Cina da una persona che affettuosamente viene chiamata il vecchio maestro, Lao Tzu o Lao Tse. E il libro è il Tao Te Ching o Tao. E è un gruppo, sono 81 capitoli brevi che anche lì sono di una profondità e di una saggezza straordinaria. Matteo Leone decide di tenere il libro e attraverso la lettura dei versetti del Tao rinasce, è la rinascita interiore. Quindi anche lì è un libro di spiritualità, un libro che parla di spiritualità, e la rinascita è un viaggio interiore anche quello, però in realtà quello è un romanzo. Ci sono dei passi dove che vengono riportate le parole di Lao Tzu, pari pari, però in modo molto diverso. Quindi sì, parliamo di spiritualità, l'ho preso un po' alla larga, sì, alla lunga, però parliamo di spiritualità ma non parliamo di religione, parliamo di qualcosa che tocca ognuno di noi, perché ognuno di noi è in viaggio con il suo passo, che ne sia consapevole o no, e a volte le parole dei grandi maestri ci toccano e ci aiutano e ci danno una mano. Spero di aver risposto. Dalle tue ricerche e con quello che tu hai letto, che ci hai mostrato di Rumi, forse sbaglio, ma l'amore che lui esprime è sempre per una donna o è la natura, gli animali, o è proprio destinato verso una donna? E quella donna è sempre quella? Bellissima domanda. Rumi, quando si rivolge a qualcuno, si rivolge a una fantomatica persona che lui chiama Laila, che in realtà non esiste. Ci sono due correnti di pensiero. C'è chi dice che tutti i 70.000 versi d'amore che ha scritto siano indirizzati al suo maestro, Shamsi Tabrizi, e c'è chi dice che in realtà Laila rappresenti l'amore universale, l'amore per tutte le cose, per tutte le creature. Io propongo più per la seconda ipotesi. A questo proposito, una bellissima domanda perché mi aiuta a spiegare l'incipit, il prologo. Allora, c'è un pettegolezzo sulla vita di Rumi, su quello che successe quando Shamsi Tabrizi e Rumi si incontrarono, che ha attraversato gli oceani del tempo ed è arrivato fino ad oggi. Cosa successe? Allora, Shamsi Tabrizi incontra Rumi nel 1244 a Konya. Queste due persone si chiudono in una madrasa, in un locale dove si studia, e si fanno portare da mangiare, da bere, e non ne escono per settimane. E si dice che tra i due sia nato un amore proibito. Allora, siamo nel 1244. Shamsi Tabrizi ha più di 70 anni. È una persona a quell'epoca probabilmente come un uomo di 90 anni oggi. Quindi non credo che possa essere successo qualcosa tra queste due persone, se non un amore platonico universale ad un livello superiore. E tuttavia questo pettegolezzo, che probabilmente è stato messo in giro dai suoi discepoli, perché allora, come ho detto prima, Rumi aveva degli studenti che lo seguivano, arriva questo senza tetto che porta via il loro maestro e insomma è scattata dalla gelosia. Non solo. Rumi, Shamsi Tabrizi era una persona piuttosto strana, una persona piuttosto bizzarra. Lui entrava e usciva dalla vita delle persone, così come si entra e si esce da una porta, però scomparve, e scomparve per sempre. E questa è una cosa che è molto inusuale, anche per una persona strana come Shamsi Tabrizi. E quindi si pensa che qualcuno dei discepoli di Rumi l'abbia fatto fuori. Esiste una forte probabilità che sia successo questo. Però la ferita è il luogo da cui entra la luce. E attraverso la perdita del suo maestro, del suo faro, Rumi è diventato ciò che è diventato. Proprio da quella perdita. È la cosa che l'ha fatto cambiare. Che dalla persona boriosa e arrogante che era, è diventato quello che è diventato. Il suo innamorato, la persona che ha scritto 70.000 versi sull'amore, indirizzati a Laila, che in realtà l'ha indirizzati a noi. Grazie, una bella domanda. Tutti questi 70.000 versi sono stati raccolti in un'unica opera? O sono stati tramandati poi oralmente dai suoi discepoli? Cioè c'è uno scritto proprio ufficiale? Allora, lui ha scritto tantissime opere e l'opera principale è il Masnavi, o Matnavi, dipende come viene pronunciato e da chi lo pronuncia. E è quello l'opera su cui ci siamo basati. In realtà è stato un lavoro abbastanza difficile perché bisognava estrapolare alcune frasi che ha detto. È un po' come chi è che ha letto il Masnavi? Voglio dire, chi è che ha letto la Bibbia dall'inizio alla fine? Probabilmente molte poche persone. E lo stesso con le opere di Rumi. Si leggono, non si leggono come si legge un romanzo dall'inizio alla fine. E si leggono con il cuore, si apre una pagina e si legge e si sente che cosa ci dice. Quindi comunque qua, per rispondere alla sua domanda, è basato sugli scritti del Masnavi, che è un bel mattone. Sì. Ecco, allora, io in realtà non so quanto tempo abbiamo, è stato abbastanza veloce, e niente, se non avete nessun'altra domanda, mi fermo, se qualcuno volesse acquistare una copia o chiacchierare, io ci sono. Ah, un'ultima cosa. Voglio lasciarvi con una cosa che ho scritto nella sezione dei ringraziamenti. Quando l'ho scritto mi sono emozionato, mi sono commosso. Spero di riuscire a leggervelo senza commuovermi. Mi scuserete. Un sentito ringraziamento va agli abitanti del Sud Tirol che mi hanno accolto in questa terra incantata che ora sento un po' anche mia. Amo la loro creatività, la fierezza che li radica il territorio e quella tenacia che li rende simili alle montagne che li circondano, solidi ed incrollabili. All'inizio è un dialogo fatto di silenzi e sguardi, ma quando aprono il cuore ti offrono un'amicizia che dura per sempre. Qui tradizione e modernità danzano assieme e la vita scorre in equilibrio tra passato e futuro. Mi onora far parte di questa comunità dove l'amicizia è un legame profondo e prezioso, capace di crescere forte e duraturo come le radici di questa terra. Grazie.